Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. Già immagino, ma non me ne faccio un grande problema, quanto sarà criticata la nostra scelta questa mattina. È una delle scelte che avevamo lievemente programmato, non sempre programmiamo, anzi non lo facciamo mai, ma c'è una persona che viene settimanalmente in questo studio, quindi con lui, siccome viene da fuori, abbiamo deciso di trattare oggi questo argomento. Argomento, so già, suonerà provocatorio. Come? In una giornata come questa, in cui le pagine dei giornali sono piene di fumo, di fuoco, di popolo in rivolta, in cui c'è una situazione così critica, così difficile, in cui sembra che tutta l'Italia sia scesa in piazza per protestare, per cambiare dal basso le cose, come vedevo ieri fino a notte tarda guardando le interviste dei giovani rivoltosi per le piazze d'Italia, soprattutto a Roma, che ho visto, sentito, annusato, proprio perché ce l'avevo sotto casa. Beh, in questo momento vai a parlare di un argomento che sembra essere proprio alla matrice di questa rivolta, che sembra proprio di essere uno dei tanti motivi, anzi forse il motivo principale per cui la gente scende in piazza. Giovani che si fanno scudo con dei libri, cioè noi ci difendiamo con la cultura, con dei grossi libroni, in realtà sono degli scudi per tirare candelotti e sanpietrini contro la polizia, per protestare, giusto protestare, è un lecito diritto di ognuno. Ma in questo clima generale, in cui magari per stamattina vi sareste aspettati che io avrei lanciato una riflessione sul senso della piazza, sulla voce della piazza, sul furor di popolo, sulla democrazia allargata, sulla necessità, liceità, diritto di pubblica protesta, sulla violenza di piazza, sul ritorno di fiamma, su questi giovani che fanno le stesse cose facendo i loro zii, i loro nonni, i loro genitori, e lo fanno con dei ben precisi, probabilmente obiettivi, o semplicemente perché in fondo fa parte di una necessità generazionale, quella di assaporare l'odore del lacrimogeno nelle piazze. Ben, questa mattina di cosa vado a parlare io? E gli uomini? Ne ho avuti qualcuno. Per me uomo o donna è la stessa cosa. Il sesso non è importante. Le cose le faccio se capitano. Non è importante. Per me è importante. Anzi, è importantissimo. Non è che non ne possa fare a meno, ma penso che sia una cosa che mi spetta. E se mi spetta, io la voglio. È chiaro? Non ho altro da dire. Ciao, ciao, grazie. Questa mattina parlo delle fulgide eroine di un passato nemmeno troppo remoto, di anni in cui si facevano esattamente le stesse cose nelle piazze, ma guarda caso, senza che si parlasse pubblicamente di bunga bunga o di particolari festini, gli italiani comunque avevano una loro area di sollievo rispetto alla tensione politica, rispetto alle problematiche che quotidianamente rendevano grigio le nostre giornate. Vivere negli anni 70 è stato un periodo veramente difficile, anni veramente schifosi, anni grigi. Non ricordo una giornata di sole degli anni 70, forse ce ne saranno state, ma non le ricordo assolutamente, ricordo soltanto questa nebbiolina, questa tensione, questo senso di rabbia, questo senso di rivolta, alleviato soltanto da alcune presenze che naturalmente per noi erano totalmente impalpabili, presenze che lasciarono tracce profonde nella nostra compattezza fisica, presenze benedette a cui dobbiamo però cali drastici delle nostre diottrie. Beh, queste sono le signorine di cui questa mattina parlerà con noi Giuseppe Sansonna. Sansonna, che andiamo enucleando questa mattina nel nostro viaggio attraverso la immagine speculare degli italiani nella commedia del cinema. Abbiamo ascoltato una clip tratta da Avere vent'anni di Fernando Di Leo, il Don Siegel foggiano, che qui si dedica a creare una Thelma e Louise ante litteram, scegliendo le due amazzoni, le due pentesilee del cinema italiano. Che anno siamo? 78, siamo in pieno 78, pieni anni di piombo, e c'era Gloria Guida e Lilli Carati, la bionda, argida, splendida Gloria Guida, e Lilli Carati invece mora, sembra la dea Atena. insieme attraversano questa Roma piena di, e passano per una comune gestita dal Nazariota, un Vittorio Caprioli sordido napoletano, piena di gente strafatta di oppio. Poi passano invece da un mondo fatto più viriloide, c'è cioè, Catenacci, Bracardi, un centro sociale ante litteram, sì, diciamo. Un centro, una vera e propria comune con molte ecco, il tempo della comune, con molte inflessioni, c'era questa ventata di filosofia, di meditazione trascendentale, di oriente, e c'era allo stesso tempo il senso della rivolta che palpitava e sentiva ferocemente nelle piazze. Fernando Di Leo cerca di attribuire a queste due donne, alla potenza disgregante, battagliana del loro eros, che era insito nei loro corpi strepitosi, folgoranti, una forza eversiva. Ovviamente non riuscirà pienamente, perché era un uomo vecchio stampo, comunque, in ogni caso, però il film, pur basandosi molto commercialmente sulle bellezze delle due donne, ha un finale tragico, perché loro attraversare Roma, incontrare uomini di diverso tipo, tutti inadeguati per un motivo o per l'altro, finirà con l'uccisione sadiana di queste due figure. Quindi il loro la potenza dell'eros deve essere soffocata nel sociale, perché è prorompente, è troppo eversiva. Ecco, allora l'eros veniva considerato, in anni in cui il senso della rivoluzione era palpabile, il senso dell'antagonismo rispetto al potere costituito era palpabile, l'eros, la bellezza, il nitore splendido di queste carni, che poi erano rappresentate in maniera molto innocente rispetto a quello che oggi noi abbiamo come immagine dell'erotismo, immagine della trasgressione erotica, erano considerati però dei valori rivoluzionari. Come mai oggi, secondo te, in realtà la bellezza, la prorompenza fisica è considerata un valore reazionario? Esiste una sorta di moralismo di piazza? Vedere i ragazzi di 20 anni con i cartelli contro il bunga bunga, che ammesso che esista o non esista, è la rappresentazione dello scatenamento panico della sessualità, mi fa un po' pensare. Beh, comunque la cosa principale è che questi non erano corpi omologati, è ovvio che hanno il pecoreccio inevitabilmente cercava una sorta di omologazione, una sorta di appiattimento, di soffocamento. Siamo sempre in piena morale cattolica, quindi la potenza eversiva insita in questi corpi che non erano siliconati, quindi ognuno aveva una sua individualità, cioè Lilli Carati aveva una sua bellezza, Gloria Guida ne aveva un'altra sua. Tutto questo veniva, i maschi che gli si fanno attorno, questo discorso da questi microfoni abbiamo fatto più volte, i maschi che gli si fanno attorno hanno sempre l'aria pecoreccia di Banfi o di Bracardi in questo caso, che ne neutralizzi un po', cioè l'uomo è sempre, non è mai all'altezza di tutta questa prorompenza. Sì, poi questo era molto democratico, questo dimostrava che in realtà c'era una possibilità di accesso popolare per tutti, per la bellezza. La bellezza era un bene fruibile da tutti, anche dal cialtrone. Oggi la bellezza viene considerata come una sorta di status, uno status raggiungibile soltanto dagli eletti, dai ricchi, dai potenti, e quindi c'è una forza di rabbia di popolo, di furor di popolo. Il bello non appartiene a tutti, il bello appartiene soltanto ai re, agli imperatori, quindi bisogna dare l'assalto alla Bastiglia per fare come fossero prede di guerra queste bellezze, che in realtà loro erano distribuite con grande saggezza, un grande spirito comunque di compassione per i bisogni popolari. Erano fruite da una sorta di voyeurismo cinematografico, dalla serratura, che appunto era il cinema popolare, il cinema di terza, quarta visione. 800 24 00 24, che memoria avete delle belle del cinema italiano? Non le belle che ormai sono proclamate da tutti i festival cinematografici, le belle che ancora ben restaurate, ben mummificate, ancora pontificano, ancora parlano. Ho visto interviste fantastiche della Loren, della Lollobrigida. Lollobrigida era intervistata ieri in uno dei contenitori pomeridiani, mentre l'Italia furoreggiava, si scambiava San Pietrino e Candelotti, tranquillamente nei canali Rai vennero fatte interviste alle belle del passato, e c'era appunto la Lollobrigida che, un po' indispettita, rispondeva a un'intervistatrice petulante, diceva della sua rivalità con la Loren, dice: ma sono passati 50 anni, mi domandi ancora questa roba? Viale del Tramonto, cosa vuoi che ti dica? Ecco, contemporaneamente a questo avrete comunque un ricordo, una memoria di queste fantastiche donne che hanno attraversato il vostro immaginario. Foste voi un bravo ragazzo con gli occhialini che studiava con i libri sotto braccio, foste voi un integerrimo rivoluzionario che andava a scuola con l'eschimo, con le barattoli di vernice rossa, con i giornali infilati nella tasca per far vedere la testata antagonista, avevate comunque una forte traccia di queste signorine. Ma non me ne va bene una con questi uomini. Il conte ritarda e anche lui è così deludente. I maschi non hanno più nessuna sensibilità, delicatezza, nessuna comprensione. Ma ci sono anche delle mosche bianche, signora mia. Sono rare, ma ci sono queste mosche. E l'anima, dico io, non conta? E che non conta? O credono come nel Medioevo che la donna non ce l'ha? Eh no, signora mia, lei ce l'ha un'anima come bella e tonda, che è stupenda, non capisco niente. Lo sa? Tante volte io ci penso. Oggi sono solo quelli come lei che sono ancora capaci di un sentimento completo. E infatti io i sentimenti ce l'ho tutti al posto giusto, mi credo, sono completo di tutto, ecco. Ecco, forse basterebbe che uno come lei incontrasse la donna giusta al momento giusto. Ecco, come ha detto signora, scusi, la donna giusta al momento giusto. Oh. Ma nei miei riguardi vuol dire? Qua siamo la moglie in vacanza e l'amante in città con Barbara Boucher. Barbara Boucher che ho visto fantastica in una mia visione notturna dell'Anatra l'Arancia l'altra sera con Tognazzi. Aveva un fisico stupendo, cioè non faceva manco 20 Belen messe in fila, faceva una Boucher di allora. È centrato, non faceva Belen. Veniva da un altro mondo, non a caso la Boucher, a cui mi lega un ricordo dell'episodio personale. Che adesso sviscererai in ogni particolare con dovizia. Io l'andai a prendere perché dovevo portarla a Cinecittà, quindi andai a prenderla con una macchina della mia ex che era un rottame, lei teneva calze buttate dentro, era sporchissima. Io cercai un autolavaggio interiore ed esteriore prima, ma non lo trovai, quindi mi recai con questo rottame fetido. Che puzzava di cane. Sì, di cane, di afrori vari, e la portai dalla Boucher, vissuta in questo lusso eterno. Cioè, penso tu poi avrai smontato quel sedile e l'avrai messo nel tuo salotto come feticcio intangibile. E ancora a casa. Mi presentai vestito di velluto blu elettrico per cercare di darmi un tono, cioè, il tipico vestito buono di quegli anni, il vestito buono, per farla sentire anche a suo agio, un po' da night. Arrivo lì all'orgiata, lei esce dal suo portone aspettandosi una limousine e appena vede il rottame sporco di fango, cioè ha calato il suo piedino che per i feticisti è oro, l'ha calato come se lo mettesse nella mota, in una fogna, è entrata con un ribrezzo totale. Ci siamo avviati sul grande raccordo anulare celebrato da Guzzanti e guarda caso forse era morto qualcuno, esploso da qualche autotreno, c'era un ingorgo pazzesco, quattro file completamente ferme, quindi siamo stati quattro ore per arrivare dall'orgiata. Beh, una fortuna hai avuto. Quattro ore insieme in cui la Boucher mi ha eviscerato la sua vita. E io gli ho chiesto a un certo punto, dopo un ingorgo che non finiva mai, gli ho chiesto: ma tu come sei passata dai film con Preminger, con Marlon Brando, a le mani appunto sulle natiche di Banfi nei film di Martino? E mi ha detto: non me ne sono accorta, sono arrivata in Italia con le 70 con Colpo Rovente di Piero Zuffi, un film surreale in cui c'è anche Carmelo Bene, era girato fra New York e l'Italia. Quindi è un'attrice, diciamo, di livello, impegnata. Era partita, era bellissima fin dall'adolescenza, arriva a Hollywood dopo aver passa da Playman, ma in ogni caso fa I due seduttori con David Niven e Brando, fa Money Penny in Casino Royale con Wells, con Peter Sellers, che mi ha detto essere folle, mi ha parlato del suo rapporto con Tarantino, che la usa come un'icona, come un feticcio vivente, cioè come se fosse un poster. Ha detto che è un bambino piccolo Tarantino, in realtà non io penso, avendo visto l'altro giorno appunto quel film, non me la ricordavo, perché poi certi ricordi svaniscono assieme alle dietrue perdute quando arriva l'età matura. Aveva un fisico che in assoluto non credo che oggi sia nulla di paragonabile nello star system delle più proclamate attrici, presentatrici, donne di spettacolo. Cioè la Bellucci in confronto sembra una vecchia di 70 anni. Il suo ballo in Milano Calibro 9, il suo ballo strepitoso vestita di sole perline in Milano Calibro 9 di Leo è qualcosa che fa bollire il sangue, ma ha un viso oltretutto di una bellezza particolare, tutta sua, non c'è il silicone che appiattisce omologa come oggi. Stefano, buongiorno. Buongiorno. Cominciamo buongiorno. A affondare le radici profonde dei nostri ricordi inconfessabili. Ma questi ancora oggi, intanto buongiorno. Hai la voce che ti trema, ma cos'è, come mai? È un po', diciamo, ho fatto un po' una volata per poter andare fuori anche, per poter parlare. Ah, diciamo, senza farti sentire a casa. Anche questo, sì. E niente, no, dicevo prima, io avendo 50 anni a momenti, mi ricordo molto la Lilli Carati. Porti gli occhiali? No, domanda. Allora, gli occhiali no, ma sto cominciando a vederci molto male. Lo so. lì mi sono veramente... E cosa vedevi al cinema quando eri ragazzo? Caspita, vedevamo insomma la Fenech, la Gloria Guida, la Lilli Carati, insomma, sempre con questo. Uomini, come avete detto prima, un po' posticci, insomma, un po' diciamo mai all'altezza della situazione. Come normalmente è ogni uomo di fronte a una donna fantastica, diciamo la verità. Sì, in effetti ci si sente quando, per esempio, io mi ricordo da ragazzi, non andavamo mai da queste bellone, proprio perché ci si immedesimava in quei film, a volte dire, caspita, ma come si fa? Ma non andavate, non è che, che erano poi, diciamo, dietro ogni angolo, erano lì pronte, non c'era nulla di paragonabile, perché le nostre coetanee a quei tempi vestivano con scarpe Clark puzzolenti, jeans sdruciti, maglioncini infeltriti, portavano mutande ascellari e non portavano reggiseno perché era brutto, quindi sì, era roba qualcuna, ben diversa. Diciamo, si distingueva, le altre, insomma, certo. Forse nei paesi, non lo so. Diciamo così. Però sostanzialmente, ecco, noi andando al cinema è sempre il solito gruppetto, perché insomma sempre sfigati, intendiamoci, mica poi eravamo sempre titubanti, sempre un po' impauriti, insomma. Però lì poi le nostre immaginazioni arrivavano a dei punti, insomma, a livello di immedesimarsi quasi nel personaggio, in Lino Banfi o in quegli che era molto facile, diciamo, perché poi non c'era una grande differenza sostanziale tra noi e gli antieroi di quei film. Questa è la chiave, secondo me, importante, che più volte con Sansonno abbiamo messo in vista. Oggi le belle sono irraggiungibili, sono state messe una sorta di Olimpo posticcio, che sembra che siano soltanto delle dispensatrici di offerte telefoniche o delle fantastiche animatrici di luoghi fantastici, appunto, o accompagnatrici di esseri che stanno al di sopra di ogni norma: i calciatori, i politici, i miliardari, i proprietari di grandi discoteche. Ritorno sul fatto che allora c'era questa sorta di messaggio fortemente democratico: la bellezza è un bene fruibile da tutti, purché la si sappia apprezzare. E Lino Banfi, nella sua cialtronaggine, era molto più vicino a una tipologia di impegno sociale, quando faceva il bavoso dietro, appunto, alla Fendek, che oggi che rappresenta comunque un nonnino con le sue idee politiche ben definite. Sicuramente favoriva una forte identificazione, però ripeto, secondo me avevano anche una loro forza particolare queste amazzoni, queste semidee, una forza che è legata alla loro specificità, ciascuna a suo modo, da Lilli Carati alla stessa Gloria Guida, e la sua, forse mal usate anche meglio, avrebbero la forza erotica dei loro corpi, avrebbe assunto anche un significato più ampio, più esteso. Perché erano particolari, ognuna aveva delle caratteristiche specifiche. Ecco, 800240024, avrei amabilmente piacere di sentire anche la voce di qualche signora in questa giornata scellerata, in cui noi, andando totalmente controcorrente e porgendo il nostro petto innocente al tiro incrociato di quanti oggi ci accuseranno di disimpegno, di maschilismo, di bieche chiacchiere da bar nel giorno in cui dovrebbero tutti prendere coscienza della drammatica situazione del paese. Marco. Buongiorno a tutti, spero ci azzecchi con la, diciamo, con l'argomento, con gli anni di cui state parlando, però ho sentito che parlavate anche di amazzoni e roba del genere, quindi come non ricordare Rita Rusic, secondo me. Atti al flagello di Dio con sì. Abba Tantuono. Sì, il suo punto più alto, il punto più alto di Rita in assoluto, la cosa migliore che fa. Bergman, praticamente, si potrebbe dire. Devo dire che io ero abbastanza piccolo all'epoca, eccetera, però in quel film mi ha veramente piccolo ma sincero, quindi la vedeva con attenzione. Certamente. E la ricorda, cos'è che ricorda particolarmente? Fu il primo film, mi pare, distribuito da noi, serio, con la Rusic. Sì, sì. Comunque c'è il feticismo, appunto, della storia lì, la Attila, gli abiti, appunto, da mazzo, da Unna, appunto stavo proprio pensando al fu la pellicola che ispirò Baricco, che ispirò Baricco nella sua lettura, lo sa, sulla differenza fra barbari e imbarbarimento, è una dissertazione molto alta che sta facendo, in cui i barbari sarebbero in realtà gli innovatori e gli imbarbariti sarebbero il resto del mondo che deve guardare e ascoltare. Fu fortemente ispirata dal senso del film Atti al flagello di Dio. Sì, cercherò sì. Di trovare questo libro e leggerlo allora. No, assolutamente non può. È il complemento necessario e indispensabile. Stava dicendo qualcosa sul feticismo che era interessante, vi pare, vero? No, in realtà il feticismo era il costume proprio, era abbastanza, cioè veramente parecchio succinto, e fasciava appunto questo corpo che era veramente statuario, secondo me. Cioè, se non vorrei fare discorsi strani a queste ore. No, non c'è nulla di strano, stai dicendo le cose più naturali del mondo. Vede, la stigmata più dolorosa della modernità, anzi di questa fase della contemporaneità, che parlare di corpo, parlare di bellezza è qualcosa che sembra che vada fatto in luoghi nascosti, con grande riservo. Stiamo passando una fase di bieco moralismo ingiustificato che secondo me andrebbe combattuto. Hello? Sì, hai un momento. È Manuel, vuol fare l'amore e vuole sapere se deve venire lui qui o se devo andare io da lui. Non lo so. Qui? Da lui? Faccia lei, che me ne frega a me. Ciao. Petersen. Tesoro? Tesoro, puoi venire qui, sì, ti aspetto, ma non prima di stasera, eh? Alle donne così io gli spezzerei le... Io! Andiamo. 800240024, senza tema di sentirci dare dei cialtroni. Questa mattina affondiamo la nostra memoria nell'immaginario fanciullesco, adolescenziale o già di uomini fatti adulti, che aveva delle costellazioni fantastiche, perlomeno così ce le ricordiamo. Sono queste donne ancora non corroborate dal silicone, non corroborate. Qualcuna sì, forse un pochino, aveva qualche ritocchino, ma ancora quelle cosine tipo nasino alla francese, come poteva avere la Fennec, che sì, davano una piccola mano alla natura laddove non era stata particolarmente generosa, anche se era stata generosissima in altri luoghi della loro costellazione corporea, ma che in realtà rappresentarono una sorta di momento di grande liberazione. Erano anni in cui, ripeto, si manifestarono queste persone attraverso una serie lunghissima e molto articolata di film, di commedie, anche film molto di basso tenore, B-movie, che non dovremmo qui rivalutare in toto. Però c'erano queste presenze, che avevano una sorta di linea comune, che era quella di essere fantasticamente belle. Poi ognuno di loro aveva, come diceva giusto Giuseppe Sanson, che sta qui accanto a me, erano belle perché rappresentavano ognuno una tipologia di donna, erano tutte diverse dalle altre. Oggi, se guardate bene, le bellezze maggiormente proclamate, a cui nulla voglio togliere, in realtà sono tutte omologate, sembrano tutte nate dalla stessa matrice, sembrano tutte appartenere alla stessa popolazione, alla stessa etnia, allo stesso luogo irreale. Oggi la bellezza non ha più una sua matrice personale. La Boucher era diversa dalla Fennec, era diversa da Lily Carati, era diversa da tutte le belle che staremo via via adesso, Gloria Guida, ne avremo tantissime da poter elencare, perché era una costellazione molto ampia, ma ognuna era diversa dall'altra, perché ognuno aveva realmente una provenienza, latitudini diverse, opposte. Qualcuno veniva dall'estero, qualcuno era fortemente connotata da caratteri regionali che poi erano contaminanti anche dalla sua maniera di porsi. Giuseppe Sanzonna, cosa abbiamo sentito? Abbiamo sentito Colpo in canna del Don Siegel, già citato Foggiano, Fernando Di Leo, con appunto svizzera Ursula Andres, che ha tutta la carica mitica di una Bond girl. Arriva a Napoli, la trama è stata poi ripresa da Jackie Brown di Tarantino. Lei è una hostess che, come Clint Eastwood in Per un pugno di dollari, riuscirà a mettersi fra due bande e a portarsi via dei soldi. Quindi una donna molto emancipata, molto bella. L'Andres andava già verso gli Anta, però attraverso dei flu e delle luci hollywoodiane la fa diventare una diva splendida, la fa ritornare agli antichi fasti Fernando Di Leo. E lei, quindi, è una donna autodeterminata che fa sesso con uomini, sceglie lei i suoi uomini, sceglie e picchia, spara e ruba soprattutto alla fine. E Di Leo cercava di dare a queste bombe sexy anche una connotazione più profonda, più autonoma, rifacendosi alla black exploitation americana, quella appunto da cui veniva quei film per soli neri, da cui veniva appunto Pam Grier, la diva rivalutata da Tarantino in Jackie Brown, che non a caso è un grande fan di Di Leo. C'era questa volontà di fornire connotazioni più profonde a queste figure sexy, dargli appunto un'individualità molto forte. Abbiamo vari ascoltatori che ci chiamano, laterano un po' le signore, mi rendo conto che avranno un giusto e pudibondo riserbo questa mattina a partecipare. Sono state spettatrici a loro, sono state le loro madri, lo sono state le loro sorelle maggiori, di questa sorta di infogliamento non dannoso dei loro maschi. In fondo era anche uno stimolo che ravvivava i rapporti, perché poi quando uscirono dal cinema uscirono abbastanza attizzati gli uomini, quindi, e poi dopo naturalmente riversavano il frutto della loro ammirazione su chi avevano vicino, quindi in fondo facevano anche bene. Era un grande lubrificante sociale questi film, un ammortizzatore sociale delle inadempienze coniugali, sentimentali e relazionali. Gianni. Buongiorno, dottor Nicoletti. Buongiorno, buongiorno anche al suo ospite. Niente, io chiamo dalla Sicilia, da Cereale. Io vorrei citare un film di Salvatore Samperi, Malizia, con Turiferro, con una Laura Antonelli straordinaria. Cioè, io mi ricordo, noi eravamo ragazzini, 13-14 anni, ci ha completamente stravolto la nostra giovinezza. Ma guardi, stravolse anche, io forse avevo qualche anno in più in quegli anni, stravolse sì. Anche i diciannovenni, ventenni di allora. Sì, ma io infatti ancora ne parlo, mi creda, con una nostalgia di quella donna straordinaria. Fu una novità assoluta, perché fu la riscoperta di un forte valore erotico in una cameriera, cioè in nulla che avesse gli orpelli della cocotte o della donna di spettacolo. Tutti noi volevamo essere Alessandro Momo, capito? Cioè, Alessandro tutti Momo. Tutti noi volevamo essere a suo posto, perché allora era l'attore Alessandro Momo che poi è morto in sì, fu una sorta di iniziazione sentimentale sessuale da parte di una cameriera. Che poi dopo ha continuato con Peccato Veniale, sempre un film di Sandro, che poi tra l'altro questo film Malizia era girato proprio nella nostra zona tra i cereali e Catania, no? Con Turifero c'era... insomma, è stato un film che volevo ricordare appunto. È la trasudante lussuria che si annida tra una ciabatta e un autoreggente, fu quello che allora sconvolse. Fuori di testa, ma quelli, guardi, erano gli anni in cui le donne giravano sigillate in dei collan o delle calzamaglie che le faceva assomigliare a dei manichini. E l'Antonelli ci fece capire che le donne dalla mezza coscia in su avevano della carne. Fu una scoperta eccezionale per noi a quel tempo. Lei pensa, Tony Coletti, che le prime file al cinema, allora tipo come il Nuovo Cinema Paradiso, sono il Nuovo Cinema Paradiso negli anni 40, lì erano gli anni 70, no? E le prime file, eravamo un gruppo di 7-8 ragazzine, e star lì a non resistere alle tentazioni, capito? Vabbè, stia attento perché la sua tale può far male anche ricordarle. Claudio, buongiorno. Buongiorno. Senta, io sono coetaneo di Gloria Guida e Lilli Carati. Lei è un po' più composto, vedo, nel attingere ai ricordi. Sì, però io mi ricordo le mie compagne d'allora, le mie coetanee, non si atteggiavano, non erano provocanti come lei. Poi diciamo la verità, adesso attingerò un ricordo innominabile che mi farà sicuramente peggiorare la mia situazione questa mattina di blasfemia sociale nel giorno dopo la rivolta, a parlare di Gloria Guida e Laura Antonelli, so che è rischioso, ma io penso che abbia incrementato il mercato dei reggicalze. Allora, piccole mercerie di paese o di provincia o di quartiere avevano ancora in qualche scatolone residuale questi oggetti che mettevano soltanto, che ne so, le vecchie, perché non avevano troppa panza per mettersi il collan. Era ignorato nelle nostre coetanee al tempo l'uso dell'accessorio intimo, che oggi è sbandierato, anche, non lo so, anche le signore vengono a fare le pulizie qua, quando si piegano si vede che hanno reggicalze autoreggenti, solo che allora era una cosa totalmente tabuizzata, era una sorta di orpello che compiaceva la vanagloria maschilista, quindi le donne si sigillavano e si trasformavano in qualcosa di plastico. Laura Antonelli con Malizia in realtà risdoganò e richiamò nella memoria ormai sepolta di noi adolescenti questo accessorio che esista soltanto nei ricordi dei nostri genitori frequentatori di casino. Fu questa la vera novità. Posso aggiungere qualcosa? Certo, qui per questo. Senta, niente, poi volevo sottolineare il diverso destino che ha atteso poi, che ha riservato alle due signorine di qui sopra, cioè Gloria Guida è una placida donna di casa, sposata un uomo famoso, appare ogni tanto sporadicamente in qualche trasmissione televisiva così rassicurante, mentre Lilli Carati, non so se avete presente i suoi trascorsi, ha avuto trascorsi anche abbastanza pesanti. Sì, poverina, sì. Di droga. Ma anche Laura Antonelli è stata messa in storia. Stessa cosa Laura Antonelli, per cui impropriamente, ingiustamente, come dicevate voi, ognuna di loro aveva delle caratteristiche diverse, erano molto personali, hanno avuto appunto dei trascorsi così di vita molto molto individuali, molto personali, non c'era assolutamente omologazione, ecco, tutto qua. E per questo ce le ricordiamo ancora, non credo che di Belen, con tutto il rispetto e l'ammirazione, fra 20 anni ancora se ne parlerà con lo stesso trasporto. Giacomo. Sì, volevo dire la stessa cosa che mi ha detto il mio collega, il predecessore. La mitica Laura Antonelli, che per quei tempi là erano, insomma, il non plus ultra, per noi ragazzini ci faceva diventare pazzi a vedere nei suoi film quelle cosce, tutte quelle sue forme. Calmo. Che adesso, no, calmo che le fa male. No, attenzione, non si faccia prendere dall'impeto emotivo, perché è passati parecchi anni. Le dicevo, per cui... Quando per saliva sulla scaletta. Esattamente. Adesso invece te la schiaffano lì davanti al naso che... Beh, beato lei, non è che succeda, no? Tutti i minuti a tutti gli angoli delle strade. Comunque sono contento per lei e mi fa piacere che questa mattina abbiamo attinto a un'altra Italia che sicuramente non è migliore delle Italie proclamate, raccontate e descritte. Non capite dunque la tempesta che alberga nel mio cuore? Per me tempesta vuol dire quando fuori piove e tira vento. Albergare invece vuol dire abitare in un albergo. Quello che volevo fare con te e che tu muori dalla voglia di fare con me si chiama trombare, che poi si può dire in tanti altri modi. Per esempio, da voi in Sicilia dite fottere. No, no, nel gorgo del peccato no. Questo era un film con citazioni auliche, diciamo. Mio Dio, come sono caduta in basso. C'era questa atmosfera un po' decadente che voleva in qualche maniera citare qualcosa di alto, quando in realtà abbiamo sentito dallo spessore del dialogo queste vette così vertiginose non è che venissero nemmeno sfiorate. Il film è di Comencini e c'è una splendida Laura Antonelli che sembra uscita da un quadro di Degas o di Renoir. È una nobile siciliana che viene concupita dal rude autista Michele Placido. Nei primi 900, ambientato 1920, sì, forse, sì, qualcosa del genere. Tipi di D'Annunzio, infatti, sì, vanno a vedere D'Annunzio. C'è una citazione d'Annunziana. Vanno proprio, sì, a vedere D'Annunzio che corre a sella, nudo sulla spiaggia di Arcachon in Francia, sì, e poi gli appare, fa: beati quelli che videro il poeta, chiude la finestrella. Cioè, Laura Antonelli, che è questa nobile che vive in questo mondo letterario, sì, fatto del fuoco, invece viene riconosciuta la rude essenzialità della passione. In un fienile con l'autista. Un fienile che cerca di strapparle i vestiti di osso, tutta la serie di velette, di veli e controveli, per arrivare poi all'essenza della Antonelli stessa. Dunque, abbiamo Ahmed, buongiorno. Buongiorno. Senta, voglio soltanto parlare di questi film italiani degli anni 70. Io ho 46 anni quasi, vivo in Italia da più di 20 anni, però la mia infanzia l'ho passata in Marocco. Pronto? Sì, l'ascolto con attenzione. Sì. Poi, lei è marocchino, di origine marocchina? Sì, sì, sono cittadino italiano, però sono d'origine, ho vissuto la mia infanzia in Marocco. Mi ricordo di questi film di Banfi, Thomas Millian, poi anche come si chiama, Sofia, i film in cui c'è anche Max von Sydow, Sofia Loren, erano tutti tradotti in francese, arrivavano tramite la Francia in Marocco. Quindi un grande strumento di integrazione preventiva rispetto poi ai flussi migratori che verranno alla fine degli anni 90 fu proprio questo tipo di commedia. Sì, poi magari anche sono stati anche i primi film della mia generazione in generale, diciamo, che hanno dato un'idea un po' sull'Italia, in particolare sull'Occidente in generale, soprattutto sulla donna, sulla commedia, sul... e poi l'uso delle donne, per dire, noi, per dire anche sì, come si dice, un paese... Ve lo sognavate, diciamo, in quei tempi, quell'uso delle donne? Sì, erano irraggiungibili, delle donne belle, così un po', però, no, ma, però strano che, come si dice qua, lì, almeno quel periodo lì, degli anni 70, sia ai grandi che ai piccoli, non davano noia questi film, nel senso, essendo un paese musulmano. Sì, ma non c'avete proprio... ancora questo integralismo sessuofobo? No, assolutamente che... non c'era, perché come sa benissimo che anche la rivoluzione iraniana ha cominciato a tardi. Il vero odio per la donna, che è la chiave di tutti gli integralismi, ancora non era percepibile. C'era questo senso tipico comunque della civiltà islamica che ammira la donna, anzi un grande mezzo di elevazione spirituale. Infatti, perché anche no, per fortuna in Marocco ancora oggi così. Per fortuna che la donna è rispettata. Sentono solo una domanda, visto che lei vede in francese, come facciano a ricostruire nel doppiaggio l'incedere dialettale di Lino Banfi? Lino Banfi come parlava? Infatti, perché questi film ci arrivavano tradotti dalla Francia, tramite la Francia, non è che si facevano in Marocco, già tradotti, come quelli di Louis Phoenix, tutti questi qua. Però il problema è che noi si prendeva quello che c'è, però l'originale non lo sappiamo mai, non l'abbiamo mai saputo qual è l'originale, anche perché non conoscendo l'italiano allora. Però quando io sono arrivato qua, io ho studiato qua anche all'Università di Firenze, tutto, ho fatto anche un corso di storia e critica del cinema. Poi dopo ho cominciato un po' a dire, come ha detto giustamente lei prima, che la differenza c'è, veramente c'è. Però bastava i gesti si erano molto apprezzati. Sentiamo Sansone a farle una domanda. Ma il cinema marocchino che lei vedeva invece come rappresentava le donne? C'era una sorta di cinema erotico possibile? Com'era? Diciamo come le vedevo io questi film. Ma il cinema proprio marocchino fatto in casa. Che i marocchini vedevano gli italiani come gli italiani vedevano gli svedesi in quel tempo, ecco. Infatti sì, l'Italia era proprio in una maniera un po' sbagliata. Era un bel maiaio, allora, diciamo, era quello l'idea. No, era il paese della pornografia per qualcuno. Quindi negli anni 70, da quelli che poi diventeranno i futuri immigrati, l'Italia aveva visto come il paese del Bengodi, il paese delle maialone, in cui già negli anni 70 c'era questa sorta di fantastica, gioiosa liberazione dei costumi sessuali, vero? Così era il paese del benessere, ma anche del godimento di tutti i sensi. E pensi, noi invece chiamavamo quegli anni gli anni di piombo. Roberto. Buongiorno. Io volevo segnalare, dunque innanzitutto non mi preoccuperei della cialtronaggine, perché la realtà da anni ha superato il cinema in quanto a cialtronaggine. Per fortuna. E volevo segnalare invece un caso abbastanza unico, che è quello del film Mia bella matrigna, dove c'è un caso unico che è quello di Sabina Ciuffini, che nel film sfoggia un nudo integrale. Sì, ho qui davanti, presa da Google, l'immagine di Sabina Ciuffini con le sue tette di taglia. Però allora era un senso di dissacrazione unica, perché Sabina Ciuffini era la valletta di Mike Buongiorno, che lui vide un giorno davanti al liceo Giulio Cesare, ancora bambina, e disse: tu sarai la mia valletta. Era il simbolo dell'Italia pudibonda, delle figlie di Maria, delle ragazze, avevano sempre vestitini lunghi, quando qualche volta aveva la gonna al di sopra del ginocchio, Sabrina hai messo la minigonna, e poi fece un film zozzo in cui, Sansone, ricordaci la trama, sì, quei film di iniziazione attraverso, sì, era zie e sulla Martini. Scia di Grazie Zia di Samperi, un po' un bellocchismo erotizzante in cui questa diva nazionale popolare, il massimo della sessuato, si sposa un vecchio professore vedovo e alla fine se la tromba il figlio. Queste situazioni familiari anguste in cui però c'è una sorta di trasversalità, una sorta di teorema. Caterina, finalmente una donna. Oh, buongiorno. Sì. Pronto? Eccola, stiamo ascoltando con attenzione e con un po' di vergogna. È un po' difficile perché mi hanno detto che ho un minuto. Allora, proviamo. Avevo accolto il suo invito a parlare come donna e sinteticamente direi che allora queste donne, visto che io ho un'età e me le ricordo, rappresentavano, mi è piaciuta la parola mazzone, perché avevano comunque una certa forza, non so come dire, no? Per cui anche le donne si potevano identificare in modo più positivo. Non erano succubi ai maschi che le circondavano, i maschi, esatto, erano sempre un esercito di poveri cialtroni e loro stanno al centro come dee. Cioè, tipo, se ne immaginava come una roba che ti sarebbe piaciuto essere, capito? Invece, tutto sommato, queste che passano ora, che tutti conosciamo benissimo, poi ci siamo dimenticati che la parola velina in realtà deriva dalle veline dei giornali. Sì. Se qualcuno, cioè, erano le veline che venivano passate dai potenti per far passare. Sì, era il gioco di Ricci quando nacque Striscia la Notizia. Esatto. Come la parodia di un giornale, le veline erano in realtà delle ragazze che ballavano. Ma ingiustamente le veline sono state additate come esempio di concupiscenza, ma sono ragazzine che ballano. Esatto. È errata. Un po' l'effetto, un po' non è la Rai, c'è cioè un po' l'asilo infantile dove così la seduzione. Ma lei sentiva l'altezza di queste amazzoni, Caterina? Abbastanza. Beh, vede, il senso profondo di questa grande iniezione di femminilità di quegli anni era che davano alle donne la possibilità di essere come loro. Anche loro potevano essere donne fantastiche, non era necessario comunque ricorrere a radicali e importanti operazioni di cambiamento del proprio fisico. Qualunque donna normalmente costituita poteva essere fantastica, perché gli uomini intorno a lei erano sempre immancabilmente dei grossi cialtroni. Grazie Giuseppe Sansonna, grazie Alessandro Chiappini, grazie Fabrizio Intonti, à demain. Alors tous deux, on est repartis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.